perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Il blitz delle forze speciali francesi nel quartiere di Saint-Denis, due terroristi morti, una era una donna che si è fatta esplodere, arresti ma non c'è la mente degli attentati. Si rinsalda l'asse militare tra Francia e Russia nella notte, nuovi raid di Parigi su Raqqa, 33 miliziani dell'ISIS morti negli ultimi tre giorni. Barche e controlli nell'udienza del mercoledì del Papa a Piazza San Pietro è semivuota, niente porte blindate nella chiesa, dice Mattarella, il terrore vuole snaturarci, non ci piegheremo. Il caso della morte di Loris, prime ammissioni della madre, è morto per un incidente, io nel panico ho nascosto il corpo. Muore una leggenda del rugby, stroncato da una malattia, se ne va a 40 anni, John Alomu, simbolo degli All Blacks. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti, effettogiorno@radio24.it, il numero di SMS e anche WhatsApp, il numero è sempre quello, il 349-238-6666. In apertura, dunque, torniamo a parlare di terrorismo internazionale, anche oggi una giornata intensa che si è giocata tra notizie di cronaca con il blitz a Saint-Denis, i falsi allarmi bomba sugli aerei, il rafforzamento della lotta finanziaria e militare all'autoproclamato califfato, mentre fanno ancora discutere i fischi di ieri dei tifosi turchi alla Marsigliese. Iniziamo dunque proprio dal blitz di questa mattina, durato 7 ore. Raffaella Calandra, buongiorno. Sì, buongiorno. Cominciato alle 4:20 della notte e ufficialmente finito poco più di un'ora fa l'assedio a Saint-Denis. 7 ore di assedio con le famiglie barricate in casa e le strade blindate. 7 ore e l'assalto al covo dei terroristi termina con 7 arresti, 2 morti, ma ancora nessuna notizia certa dei 2 principali super ricercati. Sono state ore di terrore scandite da almeno 3 esplosioni forti, quelle di questa notte, e da continue raffiche di spari che ascoltate in sottofondo. Le case intorno al civico 8 di Rue Corbillon di Saint-Denis hanno tremato quando la cintura esplosiva di una dei terroristi asserragliati in questo appartamento è stata azionata e si è fatta saltare in aria. L'altra vittima è un altro jihadista, la cui identità al momento gli inquirenti non vogliono rivelare, non prima degli esami specifica e della identificazione specifica il procuratore di Parigi. Una cautela riempita nel frattempo dalle più varie indiscrezioni di stampa non sempre verificabili, lo specifichiamo. Così è il Dernier Heure, quotidiano belga, a scrivere che sarebbe proprio di Abdelhamid Abaoud, il secondo corpo senza vita, sarebbe cioè di colui che è considerato la mente della strage di Parigi di venerdì, come già dell'assalto a Charlie Hebdo, l'uomo che pure i suoi familiari vorrebbero morto. E ora anche Libération titola che ci sarebbero elementi che farebbero pensare che Abaoud era dentro quell'appartamento dove per ora questa mattina si è creduto che si fosse asserragliato, ma come dicevamo sono indiscrezioni non confermate e in questi giorni di grande incertezza molto spesso sono circolate notizie poi rivelatesi non del tutto corrette. Era di sicuro lui però il principale obiettivo dell'assalto, quella casa era stata indicata come il suo rifugio insieme a Salah Abdeslam, l'ottavo membro del comando, il fratello di uno dei kamikaze del Bataclan. Secondo altre fonti nessuno dei due però sarebbe tra i 7 del covo di Saint-Denis. 2 le vittime, dicevamo, 5 gli arresti, compreso però il proprietario dell'appartamento che ha detto di aver solo affittato la casa ad un conoscente belga. Di sicuro nei piani di questa cellula c'erano nuovi attentati, a partire dalla Défense, il quartiere di affari di Parigi, un progetto ricostruito grazie ai messaggi recuperati in un cellulare trovato fuori dal teatro Bataclan, lo stesso cellulare in cui è rimasto impresso il segnale del via libera alla strage di venerdì, ore 21:42, era scritto "ora si comincia". Non è chiaro a chi appartenesse quel telefono, se proprio ad uno dei terroristi sopravvissuti, a quelli che ora le forze speciali hanno cercato a Saint-Denis in un assalto in cui anche 5 agenti sono rimasti feriti. Simone. E grazie alla nostra Raffaella Calandra che torneremo a sentire più avanti nel corso della trasmissione. Avete sentito nominare più di una volta anche dalla nostra Raffaella Calandra nell'arco della mattinata Abdelhamid Abaoud, appunto quello che sarebbe la mente delle stragi di Parigi. Ecco un suo ritratto. È la mente degli attentati di venerdì a Parigi. Li aveva pianificati in Siria, dove si pensava avesse già fatto ritorno. Abdelhamid Abaoud è il 28enne belga, da tempo implicato in una serie di complotti terroristici contro la Francia, compreso l'attacco sventato al treno Thalys Amsterdam-Parigi. Noto per i suoi proclami jihadisti sul web fin dal 2013, quando andò in Siria per la prima volta, Abaoud è apparso nel 2014 in un video dello Stato Islamico in cui guidava un'auto con cui trascinava dei corpi mutilati. Nel 2015, in un'intervista rilasciata al magazine dello Stato Islamico Dabiq, Abaoud si è vantato di essere andato e tornato più volte tra Belgio e Siria e ha raccontato che si trovava in Belgio fino all'operazione di polizia volta a sgominare la cellula di Verviers il 15 gennaio, ma anche allora era riuscito a scappare e a tornare in Siria. Pur essendo ricercato da diverse agenzie di intelligence, non è mai stato né identificato né fermato. E nell'intervista ha raccontato: Allah che mi ha scelto per viaggiare in Europa per portare il terrore tra i crociati che fanno la guerra ai musulmani, li ha resi ciechi. Abaoud era amico d'infanzia di Salah Abdeslam, il terrorista ricercato in queste ore in tutto il mondo per gli attentati di Parigi, fratello del kamikaze che si è fatto saltare in aria fuori dallo stadio. Tutti hanno trascorso insieme l'infanzia a Molenbeek, nella periferia di Bruxelles. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La reazione: si crea una sorta di asse tra la Russia e la Francia, mentre la stessa Russia vara una serie di misure per contrastare le fonti di approvvigionamento economico del terrorismo e i servizi. L'aviazione francese ha portato a termine nella serata di ieri, per il terzo giorno consecutivo, dei durissimi raid aerei contro la roccaforte dell'ISIS a Raqqa, nel nord della Siria. Il ministro della difesa francese, Le Drian, ha precisato che i 10 Rafale Mirage 2000 impegnati nell'operazione hanno colpito e distrutto 6 obiettivi di importanza vitale contro dallo Stato Islamico. E proprio a Raqqa, almeno 33 miliziani dell'ISIS sarebbero rimasti uccisi negli attacchi condotti da Parigi e anche dalla Russia, lo afferma l'Osservatorio Siriano dei Diritti Umani. Nel frattempo, dopo essere salpata questa mattina dal porto di Tolone, si avvicina alla regione il fiore all'occhiello della Marina Militare francese, la portaerei Charles de Gaulle, con a bordo 26 caccia. Secondo il comando del gruppo aeronavale, la portaerei sta per raggiungere il Mediterraneo e, nel caso fosse necessario, il Golfo Persico. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La condivisione di una tragedia come i massacri di Parigi e quella dell'aereo russo precipitato sul Sinai stanno riavvicinando francesi e russi, vittime di quello stesso terrorismo che ora intendono combattere insieme in Siria. Martedì, Vladimir Putin ha dato ordine alla Marina di coordinarsi con le forze navali francesi nel Mediterraneo e presto l'alleanza potrebbe rafforzarsi, visti i prossimi incontri tra François Hollande e Barack Obama e poi tra Hollande e Putin. Ma la determinazione a unire gli sforzi contro l'ISIS resisterà all'ondata emotiva di questi giorni? A ostacolare un pieno riavvicinamento tra Russia e Occidente restano le divergenze sul ruolo di Bashar Assad, che questa mattina ha definito Putin l'unico difensore affidabile della cristianità e poi ha dettato le condizioni per una collaborazione tra la Siria e la Francia che Hollande difficilmente accetterà. E poi resta il nodo dell'Ucraina. Putin ha lanciato un segnale positivo aprendo a una ristrutturazione del debito di Kiev verso Mosca, ma nel Donbass, dopo un periodo di calma, sembrano riprendere gli scontri, a ricordare che il problema delle regioni di Donetsk e Lugansk è tutt'altro che risolto. Parigi ha riportato Putin al centro della scena internazionale, ma mentre l'aviazione russa si concentra finalmente sulle postazioni jihadiste, la guerra contro lo Stato Islamico è appena cominciata. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore. Ieri, come sapete, è stata una giornata nella quale anche nel mondo del calcio l'eco di quello che è avvenuto si è fatto sentire forte. Ad Hannover, innanzitutto, dove non si è giocata l'amichevole tra Germania e Olanda sulla base di una soffiata arrivata alla polizia tedesca, spettatori evacuati, Angela Merkel portata in un luogo sicuro, ma ricerche di esplosivo e arresti ed eventuali persone da arrestare infruttuose. A Wembley, dove si sono confrontate Francia e Inghilterra, con la Marsigliese cantata da tutto lo stadio, un omaggio dunque anche ai tifosi inglesi alla Francia, e infine in Turchia, dove l'esecuzione dell'inno francese, anzi il minuto di silenzio, è stato fischiato e accolto da cori che recitavano Allah è grande. Andiamo proprio a Istanbul. Doveva essere un minuto di silenzio la nazionale turca di fronte a quella greca per ricordare le vittime degli attentati di Parigi. Invece ieri, allo stadio Başakşehir ad Istanbul, dove si giocava una partita amichevole, una parte del pubblico ha iniziato a fischiare, qualcuno ad urlare Allahu Akbar. Altri hanno cantato un inno nazionalista che dice: i martiri non muoiono, il paese non deve essere diviso. Qualche testimone ha poi tentato di giustificare l'episodio dicendo che i fischi erano rivolti agli attentatori e le parole dell'inno alle vittime chiamate martiri. Ma la spiegazione non fa una grande differenza. Anche Fatih Terim, allenatore della nazionale, a fine partita ha stigmatizzato l'accaduto dicendo: non riusciamo ad avere pazienza per un minuto, all'estero non siamo in grado di spiegare questo. Di sicuro ad alimentare la rabbia di parte della popolazione c'è lo scarso peso dato in Europa dagli attentati subiti dalla Turchia, non solo ad Ankara ma anche a Suruce e Diyarbakir, un occidente che viene visto capace di indignarsi solo quando conta i suoi morti. Ma è comunque preoccupante che in una nazione come la Turchia, con una tradizione laica e vicina all'Europa, si possa assistere ad una reazione simile in questo momento. Marco Barbonaglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Istanbul. Intanto interviene su questo tema anche il leader leghista Matteo Salvini. Dice: penso che un'istituzione sportiva seria dovrebbe escludere la Turchia da campionati europei di calcio subito. E il Papa oggi ha parlato anche di terrorismo, o meglio, delle misure di sicurezza. In una piazza San Pietro sempre più blindata, di fronte allo smarrimento di questi tempi difficili, il Papa ha esortato a reagire. Il Giubileo ormai è alle porte. Alle 9.30 dell'8 dicembre si aprirà la Porta Santa di San Pietro. E non bisogna percorrere la strada della chiusura. Ci sono posti nel mondo in cui non si chiudono le porte a chiave, ma ce ne sono tanti dove le porte blindate sono diventate normali. Non dobbiamo arrenderci all'idea di dover applicare questo sistema a tutta la nostra vita. No alla chiusura dunque per le famiglie, per le istituzioni e soprattutto per la Chiesa, che deve invece andare incontro, specie a chi è ferito, per condurlo alla misericordia di Dio. Intanto, nonostante la paura, le iscrizioni non si sono arrestate, dice Monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione. Io ho appena verificato i dati. Noi continuiamo a ricevere iscrizioni, e sono migliaia che arrivano continuamente. L'attenzione e la vigilanza c'è sempre, ma davanti al terrorismo che vuole incutere paura, e bisogna essere anche capaci di dare una risposta civile, positiva, democratica. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ovviamente, visto che parliamo di Giubileo, parliamo proprio della situazione della sicurezza in Italia. Tra l'altro ha parlato pochi istanti fa proprio il prefetto di Roma, Franco Gabrielli, mentre è intervenuto anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Allora partiamo dalle parole del prefetto di Roma, Franco Gabrielli, che ha detto: siamo consapevoli di essere all'interno di una minaccia, ma questo non ci deve minimamente indurre ad avere atteggiamenti di paura. E così anche il capo dello Stato Mattarella: il terrore vuole snaturarci ma non ci piegheremo. Un appello, quello di Mattarella, anche all'unità, all'affermazione dei principi della tolleranza, del dialogo tra le culture. Non ci faremo rubare il nostro futuro, dice da Firenze il capo dello Stato, secondo il quale è necessario garantire sicurezza ai nostri concittadini senza rinunciare alle libertà. Intanto novità emergono dal dibattito parlamentare sul decreto per le missioni all'estero, ora all'esame della Camera. Per le missioni di intelligence gli 007 potranno avvalersi delle forze speciali in situazioni di crisi o di emergenza all'estero che mettano a rischio la sicurezza nazionale o dei cittadini, quanto prevede un emendamento che potrebbe essere approvato già in giornata. Sul rafforzamento dei poteri di intelligence infatti si registra una convergenza tra tutte le forze politiche, così come sulla necessità di aumentare le risorse per la sicurezza. Per il resto divergenze restano sul tipo di risposta da dare alla minaccia terroristica. L'Italia non si nasconde, ha detto ieri Renzi, mettiamo in conto tutto ma non si vince con le sole armi, occorre una strategia di medio lungo termine, una cautela meglio espressa dal ministro della difesa Pinotti, che ha escluso un intervento in Siria. Quanto ai partiti, Forza Italia chiede innanzitutto di togliere le sanzioni alla Russia, la Lega un intervento di terra già da domani, 5 Stelle invocano il ritiro dall'Afghanistan, Sel dice un no deciso ad un intervento armato. E da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi anche per questo aggiornamento, e tra poco torneremo a parlare della situazione a Parigi e soprattutto della situazione internazionale, del quadro di questa alleanza che, come abbiamo raccontato, tra Russia e Francia si rinsalda. Intanto andiamo alle altre notizie. Iniziando dalla legge di stabilità, sulla quale ci sono, come ogni mattina ormai, delle novità. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Ricordiamo che siamo alle battute finali in Commissione Bilancio del Senato. Il testo dovrebbe ricevere infatti il via libera entro oggi e passare così in aula da domani per il voto previsto a Palazzo Madama questo sabato. Diciamo subito che i temi più importanti e di maggiore scontro politico sono stati rimandati alla Camera. Parliamo del tetto al limite dei contanti, il tema della previdenza, gli interventi per il mezzogiorno. Al Senato gli emendamenti hanno quindi visto modificare il provvedimento varato da Palazzo Chigi sul capitolo tassazione prima casa e poi su diverse micromisure. Quanto alla tassazione sugli immobili, sconto allora IMU del 25% per i proprietari di una seconda abitazione che scelgono di metterla in affitto a canone concordato. Gli immobili poi dati in comodato ai figli o ai genitori non pagheranno come seconde case, ma saranno esentate dalla TASI. Dimezzati i tagli a CAF e patronati, canone RAI in bolletta elettrica e pagamento in 10 rate, salta invece la riduzione dell'aliquota sull'IVA per il pellet che la manovra faceva scendere dal 22 al 10%. Governo infine alla ricerca di nuove risorse per fronteggiare l'emergenza sicurezza. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, veniamo alla cronaca. Nuove rivelazioni nella vicenda di Loris, il bambino per la cui morte in Sicilia è stata accusata la madre. Dopo aver fatto di tutto per salvare Loris, presa dal panico, ho preso il corpo del bambino e l'ho adagiato nel canalone di Mulino Vecchio e dopo ho gettato lo zaino sulla strada verso Donna Fugata. Ho fatto tutto da sola. E quanto avrebbe raccontato, secondo indiscrezioni, Veronica Panarello ai magistrati, cambiando per l'ennesima volta versione sulla morte del figlio Loris Stival, il bambino di 8 anni trovato morto nel canalone del Mulino Vecchio a Santa Croce di Camerina, nel Ragusano, il 29 novembre dell'anno scorso. A distanza di quasi un anno dall'omicidio, Veronica, detenuta nel carcere di Agrigento, punta su una nuova verità. È stato un incidente, dice, avvenuto dopo che lei era tornata a casa dopo aver accompagnato a scuola il figlio più piccolo. Una versione, quella di Veronica, contenuta nel verbale secretato redatto al termine di un interrogatorio durato 7 ore nel carcere di Agrigento. Dichiarazioni che, ha spiegato il procuratore di Ragusa Carmelo Petralia, saranno riversate al GUP nell'ambito dell'udienza per la richiesta del suo rinvio a giudizio fissata per domani. Ma questa nuova versione dell'omicidio di Loris non convince del tutto gli inquirenti, i quali nei giorni scorsi sono tornati a Santa Croce per nuovi sopralluoghi. Si cercano le prove a sostegno di questo nuovo racconto, ma soprattutto si cerca lo zaino di Loris. Nina Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Ragusa. Lo sport piange un suo mito, è morto giovane, il grande rugbista degli All Blacks, Jonah Lomu. È stato l'uomo che ha rivoluzionato il rugby, diventandone il simbolo numero uno e conquistando una popolarità mondiale ben al di là degli appassionati di pallovale. Jonah Lomu, di cui la Nuova Zelanda piange la morte a soli 40 anni, si rivelò nel 1995, in un momento storico per il suo sport. I rugbisti diventavano professionisti, il Sudafrica vinceva la Coppa del Mondo e si sentiva una nazione unita sotto lo sguardo di Nelson Mandela, e lui, il ventenne Jonah, sovrastava gli avversari, li scavalcava, li umiliava con mete a ripetizione. Non si era mai visto un tre quarti così velocissimo, nonostante i 110 passa chilogrammi di peso e i 196 centimetri di altezza. Il gigante di origine tongana fece ancora in tempo a disputare i successivi campionati del mondo nel 1999, ma poi fu di fatto fermato da una malattia ai reni. Tentò più volte di rientrare, una volta anche in Europa, con i Cardiff Blues. Ecco l'intervistato nell'occasione per Radio 24 da Dario Ricci. La ragione principale della mia rinascita è stata l'amore per il gioco, per il rugby e la mia fede, il credere in Dio che mi avrebbe dato una seconda possibilità per risollevarmi, per trasformare i miei sogni in realtà. Finita la carriera, Jonah Lomu rimase un'icona, un simbolo, un testimonial di prestigio e frequentò spesso anche l'Italia. E anche ora che gli All Blacks hanno vinto 2 coppe del mondo di fila, nessuno ha mai eguagliato la sua fama. Giacomo Bagnasco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo a parlare anche di Parigi, tra poco lo facciamo dopo il traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: l'assalto di 7 ore delle forze speciali francesi nel quartiere di Saint-Denis, due terroristi morti, una era una donna che si è fatta esplodere, ci sono stati arresti, ma non c'è la mente degli attentati. Siamo in guerra contro il terrorismo, sono parole di pochi istanti fa del presidente francese Hollande, e si rinsalda l'asse militare tra Francia e Russia. Varchi e controlli nell'udienza del mercoledì del Papa, piazza San Pietro è semivuota, niente porte blindate nella chiesa, dice. Le altre notizie, il caso della morte di Loris, prime ammissioni della madre, è morto per un incidente, io nel panico ho nascosto il corpo. E torniamo dunque a Parigi. Aux terroristes, la logistique et l'argent nécessaires à leurs crimes odieux. Voilà ce qui relève de l'urgence. La voce che sentite è quella del presidente francese François Hollande, che sta parlando di fronte all'assemblea, ad un'assemblea dei sindaci. Pochi istanti fa ha parlato anche la sindaca di Parigi, tra un attimo ne sentiremo un passaggio. Intanto saluto il nostro Gigi Donelli, che è appena tornato alla capitale francese. Gigi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a te Simone, un saluto agli ascoltatori. Ti chiederei innanzitutto un quadro di che situazione, che città hai trovato. In che condizione hai trovato i francesi, molto semplicemente, i parigini soprattutto? Ma devo dire che li ho trovati determinati, spaventati e determinati. I francesi e soprattutto l'anima stessa di Parigi, che è una città appunto multietnica, multiculturale, una città che nel momento in cui si raccoglie anche nel cordoglio mostra quello che è, cioè una città fatta di africani, di arabi, di europei, di varie tante provenienze, tra cui italiani, come sappiamo. Basta vedere le vittime, 19 nazionalità nelle vittime, insomma un equivalente c'era solo nell'11 settembre. Tra l'altro è in realtà proprio di questo che ha parlato il sindaco di Parigi, forse possiamo sentirne un passaggio. Nous continuerons à assumer à la face du monde notre identité collective. Ecco, credo insomma il termine identità è quello che torna anche in questo intervento che è stato molto toccante del madame, il sindaco Hidalgo o Hidalgo, perché anche in questa storia personale la famiglia Hidalgo, nata in Andalusia, è una famiglia di gente che sfugge dal franchismo, quindi l'attuale sindaco di Parigi nasce spagnola, si trasferisce a Lione, va a Parigi come tanti tanti milioni di persone hanno fatto nel corso di questi della storia, si può ben dire, e dunque diventa sindaco della città con il suo forte nome, che è più che accentato o meno, ma non cambia nulla, che porta dietro quella storia e la ragione per cui tante persone sono andate a Parigi. E direi che lei è la perfetta rappresentazione oggi di una società, ripeto, multietnico, multiculturale, che tende a amalgamare nell'amore per la città e per un certo stile di vita, come hanno giustamente detto anche i massimi vertici politici, e che evidentemente rappresenta il bersaglio del Daesh o ISIS, che dir si voglia. Questo il quadro da Parigi, poi c'è il fronte più puramente militare, insomma ancora non c'è chiarezza su quello che alla fine farà l'Europa. Di certo è stato attivato un articolo dei trattati, come abbiamo ampiamente raccontato ieri, che prevede un aiuto nei confronti della Francia, anche se Mogherini ha chiarito che non si parla di una missione europea. Una cosa è certa, è che quello che sta succedendo sta creando una sorta di asse tra Parigi e Mosca, Mosca colpita dall'attentato dell'aereo nel Sinai, e che sembra il fronte più avanzato della lotta a Daesh, Gigi. Sì, assolutamente. Intanto va sempre ricordato che l'Europa non ha un esercito e i nostri politici, tutti dei 28, si sono sempre ben guardati dal condividere quello che è forse l'ultimo grande baluardo della nazione, del controllo nazionale. Basta vedere cosa sta succedendo per la politica di immigrazione. Rapporti Francia-Russia, rapporti solidi e storici, profondi, sia in termini culturali, insomma Parigi era un faro anche per la Russia zarista. Dopodiché, senza ripercorrere così a lungo la storia, si arriva al grande freddo. Il grande freddo è stato causato dalla questione in Ucraina, che non va dimenticato. Le sanzioni non sono state create, come dire, perché la Russia è diventata un avversario, ma perché si è ritenuto a livello europeo di dover tutelare una nazione, cioè l'Ucraina, che nel momento in cui ha avviato un processo di associazione all'Unione Europea è stata di fatto attaccata dalla Russia. Ecco, basterà ricordare il caso dei Mistral, due navi che peraltro l'altro erano già state battezzate come Vladivostok e Sebastopoli, un affare da 4 miliardi di euro che per la Francia è stato un grande mal di pancia e che è stata di fatto costretta a sospendere proprio per affermare la tutela dei diritti civili, la Francia come difensore di questo ruolo. Ora le carte vengono in qualche modo rimescolate dall'allerta terrorismo che sale in testa a tutto e è chiaro, e su questo concludo, che su questo tema ci sarà da attendersi novità anche sul fronte delle sanzioni che l'Europa e gli Stati Uniti hanno imposto alla Russia. E grazie al nostro Gigi Donelli per questa chiacchierata appunto di ritorno da Parigi, per un chiarimento su quello che sta avvenendo anche a livello militare sullo scenario internazionale. Tra poco andremo come sempre a parlare di mercati, ma prima di parlare di mercati è stato presentato questa mattina il piano strategico di Enel, sentiamo. Avvia la fusione tra Enel Green Power ed Enel. Il CDA del gruppo energetico ha approvato i termini dell'operazione, che comporterà la piena integrazione delle attività rinnovabili e consentirà di accelerare la crescita. Agli azionisti di Enel Green Power andranno 0,486 azioni Enel ogni titolo posseduto. Le assemblee straordinarie si terranno a gennaio, il nuovo assetto partirà nel primo trimestre 2016. A Londra è in corso la presentazione dell'operazione del nuovo piano industriale, che aggiorna quello presentato a marzo, spingendo su efficienza e sviluppo. Parlando con gli analisti finanziari, l'amministratore delegato Francesco Starace ha anche annunciato 2.000 nuove assunzioni in Italia, a fronte di 6.000 prepensionamenti. Nel mondo le nuove assunzioni saranno 4.500, i prepensionamenti 9.200. Andrea Salomone da Radio Corp per Radio 24 e Sole 24 Ore. E ci scusiamo, abbiamo avuto un problema audio, ci scusiamo per la qualità audio del servizio. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire come sempre che cosa succede sui mercati e poi torneremo a fare un punto sull'assalto di questa mattina della polizia nel quartiere parigino di Saint-Denis e l'arresto di una serie di persone, di presunti terroristi e la morte di altri due. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. In apertura ancora l'assalto di 7 ore delle forze speciali francesi nel quartiere di Saint-Denis. Due terroristi morti, una era una donna che si è fatta esplodere, ci sono stati 7 arresti, ma non c'è la mente degli attentati. Il presidente francese Hollande dice siamo in guerra contro il terrorismo e aggiunge ci saranno misure di emergenza per ristabilire i nostri diritti e si è deciso di ristabilire i controlli alle frontiere. Si rinsalda intanto l'asse militare tra Francia e Russia nella notte nuovi raid di Parigi su Racqa. Il caso della morte di Loris, ci sono le prime ammissioni della madre, è morto per un incidente, io nel panico ho nascosto il corpo. Alla borsa. Anima, miglior gestore fondi Italia Big 2015 secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Vi presenta... Effetto giorno. E anche in questa parte di Effetto Giorno torniamo a parlare di terrorismo, prima ancora di ritornare a raccontarvi l'assalto delle forze speciali francesi nel quartiere di Saint-Denis, ci sono da riferirvi le parole del prefetto di Roma Franco Gabrielli, che sta parlando in questi minuti con i giornalisti del piano per il Giubileo. Innanzitutto un piano presentato dal questore e approvato questa mattina dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ci sarà un presidio in quasi tutte le stazioni delle tre linee della metropolitana, in tutti i nodi di scambio, in tutti i luoghi di aggregazione che possono rappresentare degli obiettivi. E ancora ha parlato di droni, aveva sollevato il tema il ministro dell'interno Angelino Alfano qualche giorno fa, dice Gabrielli siamo pronti eventualmente a intercettarli e abbatterli. Torniamo nel frattempo dove succedono le cose, ossia a Parigi, con il racconto di questo assalto di questa mattina della nostra Raffaella Calandra. Raffaella, eccoci. Simone, sì, eccoci. E gli aggiornamenti di Saint-Denis arrivano per voce dello stesso procuratore di Parigi. Sentiamolo. Dans le cadre de cette enquête, nous avons, è la voce appunto di François Moulin che sentite in sottofondo a dare conferma dei numeri di queste sette ore di assalto, un assalto ma anche delle incertezze rimaste. Tre terroristi sono stati arrestati, dice il procuratore, una ragazza si è fatta esplodere, Lenka, un uomo è stato invece trovato morto, colpito da proiettili e bombe, e sono state arrestate altre due persone che si nascondevano tra le macerie. Quindi si conferma il bilancio con sette arresti e con due persone morte, un kamikaze che si è fatta saltare in aria, un altro terrorista morto. Come dicevamo già prima, il procuratore ha specificato di non poter dare indicazioni precise sull'identità dei terroristi prima che gli esami e l'identificazione non sia avvenuta, ma anche lui conferma che l'assalto è partito perché elementi investigativi confermavano che in quell'appartamento di Rue Corbillon a Saint-Denis si trovasse proprio Abdelhamid Abaoud, ossia la mente della strage. Un appartamento che dista solo 20 minuti a piedi dallo Stade de France, che è stato uno dei teatri della strage appunto di venerdì, e anche questo è un elemento non secondario. C'è stata una violenza di fuoco mai vista, ammette il ministro dell'interno Cazeneuve, arrivato nelle strade ancora blindate di Saint-Denis, dove 120 agenti speciali si sono concentrati, obbligando la gente a restare assediata nelle loro case dalle 4:20 di questa notte. E durante il blitz è stata presa a colpi d'ascia anche una chiesa, perché si pensava che si nascondessero all'interno dei terroristi. Un blitz che ha tenuto di nuovo Parigi e il mondo intero col fiato sospeso, un blitz in cui sono rimasti feriti anche cinque agenti, ed invece è morto un cane delle squadre speciali parigini, Diesel, che già in questo momento viene soprattutto sui social ricordato come un'altra vittima simbolica, diciamo. Raffaella, a proposito di social, nelle scorse ore è circolata anche la notizia che la donna che si è fatta esplodere sarebbe stata la cugina della mente di questo attentato. Una notizia che non ha conferme al momento. Una notizia che non ha conferme. È una delle varie indiscrezioni che stanno circolando in queste ore, devo dire anche favorite da questa cautela legittima che possiamo capire da parte degli inquirenti francesi, che non si sbilanciano nel smentire o nel confermare alcune notizie. Indiscrezioni come quella che anticipavamo già nel precedente collegamento, secondo cui in realtà il secondo corpo senza vita sarebbe proprio di Abdelhamid Abaoud, ossia la mente della strage. È il Dernier Heure, quotidiano belga, a scriverlo, che in questi giorni, devo dire, ha tirato fuori anche degli elementi che poi sono stati confermati. Abaoud è proprio di origini belga, viveva appunto in questo quartiere Molenbeek, il quartiere a maggioranza araba di Bruxelles, che è stato preso d'assedio in questi giorni. Saremo a vedere se queste indiscrezioni sono confermate, compresa quella della parentela tra la donna che si è fatta esplodere e lo stesso Abaoud. Ti ringrazio, grazie alla nostra Raffaella Calandra anche per questi aggiornamenti, come avete sentito anche dalla nostra Raffaella Calandra, vista da una parte la cautela degli inquirenti, dall'altra la molteplicità di fonti che arrivano, avere un quadro definito di quello che effettivamente è successo a Saint-Denis, nonostante sia passato un po' di tempo dalla fine dei fatti, è piuttosto difficile. Avremo da attendere ancora qualche ora e vi aggiorneremo naturalmente in GR24. Resta sullo sfondo, ma nemmeno troppo, restano sullo sfondo le vicende della Siria, sulla quale si è raggiunto, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, un accordo per l'approdo ad un governo di transizione entro sei mesi. Un accordo raggiunto a Vienna che ha visto anche l'ok della Russia. L'inviato speciale per la Siria è l'italiano Staffan de Mistura, che questa mattina è intervenuto a 24 mattino, attenti a noi due, con Oscar Giannino e Alessandro Milan. Sentiamo. Quello che noi abbiamo nell'ISIS è del nazismo sotto copertura dell'Islam, ma in effetti è del nazismo e nulla di più. Sono dei folli nazisti che uccidono più islamici che in effetti di altre religioni. Vede, combattere l'ISIS bisogna ovviamente utilizzare i sistemi militari, loro non fanno altro che questo. Per vincere Daesh però c'è bisogno di una strategia complessiva. In Siria molte persone siriane disperate accettano di entrare nell'Annusra o addirittura tollerare Daesh perché pensano che non c'è un'alternativa tra Bashar al-Assad e Daesh. Non è così. Può esserci, ci deve essere un'alternativa differente, ed è quello che Vienna propone: un governo, una nuova costituzione e una nuova elezione. Così dunque sta fan de mistura, noi adesso ci fermiamo, c'è il traffico, l'appuntamento con il nostro Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.